Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che ogni tanto ritornano, non so chi sarà stato a consigliarle di scendere, Alemanno, Berlusconi col quale ha governato, La Russa col quale ha fondato un partito, sono sempre loro. Così ha risposto la candidata sindaca di Roma del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, a chi le ha chiesto cosa ne pensa della sfidante Giorgia Meloni. Ieri a Giorgia Meloni era stato chiesto cosa ne pensa della Raggi, ma non la conosco, me ne hanno parlato bene, sarà una sfida affascinante. Invece diciamo che la Raggi l'ha presa in un altro modo, dicendo che a volte ritornano, visto che ha vari legami insomma con politici del passato, secondo la Raggi. Bene, naturalmente avete capito che la politica continua a essere sempre in primissimo piano, anche oggi ne abbiamo parlato, stiamo parlando ormai nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, particolarmente per quanto riguarda il centrodestra, perché c'è veramente tutta una scomposizione, ci sono ulteriori sviluppi e in più poi Salvini oggi ha detto questa cosa, ha detto ormai centrodestra e centrosinistra sono categorie vecchie in tutta Europa, è in realtà un'osservazione che sentiamo ripetere da più tempo, da più parti, però volevo chiedere se anche voi la pensate così, anche secondo voi non esiste più un centrosinistra, un centrodestra, ma tutto può essere trasversale? Ci può essere diciamo un mix in realtà, più sono delle idee politiche, per esempio far funzionare una città non è di destra o di sinistra, si dice, però non esistono più dei valori, delle costellazioni di valori che siano a destra o siano a sinistra, oppure secondo voi queste categorie non sono superate? Ci sono sempre due canali privilegiati per voi per intervenire qui a Effetto Notte in diretta, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi in qualsiasi momento, giorno e notte, e poi gli sms 349-238-6666, questo è il numero, 349-238-6666. Anche secondo voi queste categorie destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, già Gabber lo cantava, insomma non esistono più, sono superate, oppure invece continuano a esserci, sono degli orientamenti quantomeno ideologici, culturali, di una visione delle cose, del mondo e della vita? Mentre voi riflettete, vi dico che sono molti gli argomenti questa sera. Si tornerà a parlare anche di migranti, perché è in corso il Consiglio europeo, c'è diciamo sul tavolo soprattutto un difficile negoziato con la Turchia per cercare di frenare il flusso di migranti, e probabilmente si protrarrà fino alla notte, mi sa che le decisioni sono difficili e non so effettivamente cosa potrà scaturire da questo ennesimo vertice, però poi ci collegheremo direttamente con Bruxelles. Vi sintetizzo intanto come sempre la giornata e poi man mano scendiamo nel cuore degli argomenti con gli ospiti. Il vertice sui migranti, in bilico l'accordo con la Turchia, resta il nodo Cipro, la riunione prosegue nella notte. Brasile, il giudice sospende la nomina di Lula a ministro, sconti in piazza tra i manifestanti. Verdini condannato a 2 anni, polemiche nel PD e Movimento 5 Stelle all'attacco, Renzi governa con un pregiudicato. Stallo nel centrodestra, anche Fratelli d'Italia si smarca da Forza Italia a Torino. Allarme terrorismo ad Ankara, chiusa l'ambasciata tedesca per possibili attacchi. Antico Egitto, nuovo mistero di Tutankhamon, 2 stanze segrete nella tomba, all'interno ci sono metallo e materiale organico, forse è la regina Nefertiti. Partiamo quindi dal vertice in corso a Bruxelles, vi dicevo sul tavolo principalmente c'è l'emergenza migranti, questo difficile negoziato con la Turchia per cercare di gestire meglio, di frenare i flussi migratori, anche se la cancelliera Merkel si è detta cautamente ottimista. Nella prima sessione si è parlato anche di economia, ma chiaramente il tema principale è quello dei migranti. Tra poco però ci collegheremo direttamente con Bruxelles per sapere a che punto sono i lavori e che cosa si sta decidendo concretamente. Nel frattempo resta alta l'allerta attentati in Turchia dopo l'attentato avvenuto domenica scorsa, ha costato la vita a 37 persone. Oggi sono rimaste chiuse l'ambasciata e il consolato tedesco. Abbiamo avuto indicazioni concrete di un possibile attacco alle rappresentanze tedesche in Turchia, ha detto il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier a Berlino. Per questo, ha spiegato, ho deciso la chiusura delle sedi diplomatiche. Sarà l'ombra lunga dell'attentato di gennaio a Sultanahmet, quando 12 turisti tedeschi persero la vita in un'esplosione a Istanbul. E Berlino, quindi, non ha voluto correre rischi. Resta altissima intanto l'allerta in Turchia per il rischio attentati dopo che domenica scorsa un'autobomba lanciata contro una fermata degli autobus nel centro di Ankara ha causato la morte di 37 persone e il ferimento di altre 125. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo estremista curdo TAK. A rendere la zona sempre più complicata è giunto inoltre l'annuncio unilaterale che il territorio sotto il controllo dei curdi siriani è stato diviso in tre diverse unità amministrative che compongono un'entità statale autonoma. I curdi siriani di fatto controllano una fascia di terra lunga 400 km che corre lungo il confine siriano, la Repubblica del Rojava. Si tratta di una mossa unilaterale senza alcun valore, hanno subito ribattuto da Ankara, che teme la nascita di un embrione di Stato curdo proprio ai confini meridionali. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molto in primo piano oggi è il Brasile, in realtà lo era anche ieri per una specie di scandalo non soltanto legato alla corruzione ma anche politico, adesso cercheremo di capirne i contorni tra poco. In Brasile sono in corso da diverse ore scontri di piazza in favore o contro l'ex presidente Lula. Ieri era stato nominato ministro nel governo di Dilma Rousseff, ma oggi un giudice ha sospeso questa nomina perché sarebbe, secondo il giudice, un modo per assicurare a Lula l'immunità dai fatti di corruzione nei quali si è trovato indagato. Capiremo meglio dopo che cosa sta succedendo e qual è la portata di questa vicenda. Siamo invece sulla politica italiana. La Commissione Nazionale di Garanzia del PD deciderà mercoledì prossimo, 23 marzo, sul ricorso di Antonio Bassolino il terzo sulle primarie napoletane. Nel PD intanto si è riaperta la polemica sull'appoggio dei verdiniani al governo dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Per i giudici, quello di Denis Verdini nella vicenda degli appalti per la scuola maresciale di Firenze fu un concorso in corruzione. 2 anni di carcere con pena sospesa per concorso in corruzione è questa la condanna inflitta dal Tribunale di Roma a Denis Verdini nel processo di primo grado sulla ristrutturazione della scuola Marescialli di Firenze. Nato dall'inchiesta sulla cricca delle grandi opere, il procedimento è una costola di quello in cui sono stati già condannati con sentenza definitiva Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici, Fabio De Santis, ex provveditore delle opere pubbliche della Toscana, l'imprenditore Francesco Piscicelli, noto per aver riso al telefono la notte del terremoto dell'Aquila, e il costruttore Riccardo Fusi. Secondo l'accusa, Verdini si sarebbe attivato perché De Santis venisse nominato provveditore dal ministro Matteoli e Fusi, suo vecchio amico, fosse aiutato nei suoi affari. Presente in aula, il leader di ala non ha voluto commentare la sentenza. Immediate le reazioni politiche. Da oggi Renzi governa ufficialmente con il sostegno di un condannato per corruzione. Attacca il Movimento 5 Stelle, critica e anche la minoranza Dem, la quale sottolinea come fosse giusta la sua denuncia sui rischi di un asse con Verdini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E altro scontro sempre nel PD è quello che riguarda il referendum sulle trivelle. La decisione del PD di invitare l'astensione al referendum sulle trivellazioni sta provocando le critiche di esponenti della minoranza Dem, oltre che delle associazioni ambientaliste. La decisione non è condivisibile, scrive in una nota il deputato PD Nico Stumpo, vicino a Pierluigi Bersani, secondo il quale un partito che nella sua ragione sociale contiene il concetto di democrazia deve sempre favorire la scelta della partecipazione dei cittadini. Dopo le critiche mosse dalla sinistra del Partito Democratico, la nota firmata dai vice segretari PD Lorenzo Guerini e Deborah Serracchiani, nella quale affermano che il referendum sulle trivelle è inutile. Non riguarda le energie rinnovabili, spiegano, e non ferma le trivelle, che in Italia sono già bloccate entro le 12 miglia, normativa più dura di tutta Europa. Se il referendum passerà, continuano Guerini e Serracchiani, l'Italia dovrà licenziare migliaia di persone e comprare all'estero più gas e più petrolio. Un referendum non è mai inutile, tuona Piero La Corazza, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, regione capofila del no alle trivelle. Nel referendum, in programma il 17 aprile, si chiede agli italiani di cancellare la norma che permette le trivellazioni fino a quando il giacimento è in vita. Un'eventuale vittoria del sì bloccherebbe tutte le concessioni per estrarre petrolio entro le 12 miglia dalla costa alla scadenza dei contratti attualmente attivi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda il centrodestra, dopo Roma, Fratelli d'Italia si sfila dalla coalizione con Forza Italia anche a Torino ed emerge quindi questo asse sempre più solido tra Fratelli d'Italia e Lega. Lega che forse a Roma, diciamo così, schiaccia un po' l'occhiolino al Movimento 5 Stelle, proprio nella logica della dichiarazione che vi dicevo prima di Salvini, che dice non le categorie centrodestra e centrosinistra ormai sono vecchie in tutta Europa, quindi vuol dire superate. E su questo vi sto chiedendo, lo ritenete anche voi, che non ci siano più delle categorie politiche politiche, un centrodestra, un centrosinistra, due poli, insomma, principalmente. 349-238-6666, se volete scrivere un sms su questa domanda, oppure le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma adesso parliamo del caso Media 3. I giudici hanno condannato Berlusconi Junior e Confalonieri. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato il verdetto di primo grado e ha condannato Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi a 1 anno e 2 mesi di carcere ciascuno nel processo Mediatre sulla frode fiscale e sui diritti televisivi. Il presidente e il vicepresidente di Mediaset erano stati assolti nel processo di primo grado. Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi sono stati ritenuti colpevoli di frode fiscale relativamente all'anno 2007. Confermata invece l'assoluzione per tutti gli altri imputati. La Corte d'Appello ha stabilito la sospensione condizionale della pena e la non menzione. Il reato si prescriverà comunque tra poche settimane. Angelo Mincuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca slitta l'interrogatorio di Mark Prato, arrestato per l'omicidio di Luca Varani. L'atto istruttorio, il primo confronto insomma, col PM, era fissato per oggi nel carcere di Regina Coeli, ma la difesa ha comunicato al magistrato che il giovane attualmente nell'infermeria del carcere non è nelle condizioni di poter affrontare l'interrogatorio e quindi slitta nei prossimi giorni. Scioperi, bisogna parlare anche di scioperi perché domani si prospetta una giornata difficile per chi si muove con i mezzi pubblici a causa dello sciopero nazionale per i trasporti, dei trasporti indetto dai Cobas. Si fermeranno gli autobus, metro, tram con orari diversi nelle diverse città, disagi per i treni locali, mentre per il trasporto aereo attenzione ai voli della British Airways e della Mistral, sospeso il concomitante invece sciopero di taxi, quindi i taxi ci sono. Questa notizia che riguarda medicina predittiva e prevenzione: c'è un boom dei test di DNA che fanno le persone, ma chi è a rischio poi non cambia le abitudini, contrariamente quindi alle aspettative dei medici. Infatti una volta che si è saputo di essere più a rischio di ammalarsi di cancro, di una patologia cardiaca o dell'Alzheimer, quasi nessuno abbandona le abitudini dannose per la salute a favore di altre più sane. Lo hanno verificato gli esperti di 3 università inglesi, Cambridge, Manchester e Imperial College di Londra, che hanno passato in rassegna 18 diversi studi sull'efficacia di informare le persone sul loro rischio genetico di avere delle malattie cardiache, l'Alzheimer o il cancro. La conclusione è che i test genetici che rivelano il rischio di sviluppare una malattia in realtà incidono molto poco sullo stile di vita delle persone. Sarebbe di dire insomma cosa abbiamo nella zucca. E adesso invece passiamo a una scoperta d'Egitto, una scoperta dell'antico Egitto, eccezionale scoperta archeologica nella tomba di Tutankhamon, ma le ricerche continuano. Nella vita si sa, le sorprese non finiscono mai, ma ci si stupisce quando si scopre qualcosa di nuovo risalente a qualche migliaio di anni fa. Scoperto nel 1922 e esplorato in ogni modo da decenni, la tomba di Tutankhamon ha ancora segreti. 2 stanze sono state scoperte dietro la tomba, sui lati occidentale e settentrionale, con materiale organico e metallo. Lo ha annunciato il ministro per le antichità egiziano, Mamdou El Damati, in una conferenza stampa. Si tratta del risultato della scansione ai raggi X del la tomba, compiuta il 26 e 27 novembre 2015. Ora però le ricerche proseguiranno perché, ad esempio, non è stato risolto il giallo sull'eventuale sepoltura nella tomba della regina Nefertiti. Credo ci sia sepolto qualcuno di molto importante, ma non penso sia Nefertiti, ha detto comunque il ministro, annunciando per il prossimo 31 marzo nuovi test radio digitali per determinare l'ampiezza della tomba e delle mura. I risultati verranno annunciati il 1 aprile. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24. E c'è la notizia di calcio nella sfida di Europa League Sparta-Praga-Lazio. La Lazio ha perso per 3-0 e quindi fuori dalle coppe europee. Mentre arrivano intanto i vostri messaggi qui a Effetto Notte, sia sulla pagina Facebook sia attraverso gli sms e i WhatsApp al 349-238-6666. La domanda che vi pongo questa sera è, a proposito delle primarie, della politica molto in fermento in questi giorni, il leader della Lega Salvini ha detto: centrodestra e centrosinistra sono ormai delle categorie vecchie in tutta Europa. Secondo voi è così? Sono ormai sorpassate, superate, o esistono ancora delle galassie, delle costellazioni di valori da una parte e dall'altra, delle diverse visioni del mondo? Antonio dice: solitamente chi sostiene questo e sostiene che destra e sinistra non esistono più sono gli appartenenti alla destra più becera come Salvini e gran parte dei suoi quasi alleati ai 5 Stelle, dice Antonio. Questo invece è il punto di vista di Simone, che dice: in parte ha ragione Salvini ma inutile giocare con le parole, ci sarà sempre una politica più attenta alle classi sociali meno avvantaggiate, più redistributiva. Poi sulla pagina invece dal 349-238-6666 Cosimo da Pistoia, valori, dice: tra poco vedremo anche i sindaci appena eletti cambiare casacca per un altro partito. E poi chi c'è qua? Dunque, Sergio Andolfo, cittadino deluso, si firma non per essere banale, scrive, ma la politica ha identificato, la identifico come una grande opportunità per accaparrarsi poltrone e potere, ma dei problemi se ne fregano tutti. Un altro messaggio: nel concreto esiste il fare per ciascuno o il fare per qualcuno? La destra da sempre ha fatto per qualcuno. Voi continuate con le vostre considerazioni, esistono, sono vecchie o ancora hanno un loro senso di esistere le categorie centrodestra e centrosinistra? Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, naturalmente ci riprendiamo allora cominciando a entrare man mano nel cuore degli argomenti con gli ospiti che man mano sentirete. Intanto stavo guardando ancora i vostri messaggi, il tema che vi ho lanciato questa sera è esiste ancora il centrodestra e il centrosinistra? Salvini ha detto a margine di un convegno oggi che sono ormai categorie superate, categorie vecchie, ed è forse quello che sta succedendo un po' nel centrodestra, che si sta scomponendo, frammentando, ma si sta frammentando perché le idee e i valori in realtà non sono solo da una parte o dall'altra o per altri motivi. Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666 invece per i vostri sms o per i whatsapp, che cerco di leggere ogni tanto ma sono sempre piccolissimi, ve lo dico. Marco scrive: il problema è il contenuto e non il contenitore, questo proprio non vogliono capirlo quegli ebiti che ci governano. Ilaria scrive: più che altro e forza, a forza di spostarsi verso il centro finiranno per coincidere destra e sinistra, un minestrone indigeribile. Ricambio il bacio a Ilaria. Enzo invece dice: certo, per Salvini esiste il nord-sud, bianco-nero, uomo-donna, ricco-povero. Vediamo ancora i messaggi invece al 349-238-6666. Centrodestra e centrosinistra non sono mai esistiti, ma solo una cozzaglia di partiti e partitini. Bene, adesso vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti, se avete acceso a quest'ora invece che puntualmente alle 21 quando inizia Effetto Notte, e poi cominciamo con gli argomenti. Verdini condannato a 2 anni per corruzione, scontro all'interno del PD, la sinistra Dem attacca e anche il Movimento 5 Stelle dice: Renzi governa con un pregiudicato. Vertice europeo sui migranti, in bilico l'accordo con la Turchia, ne parleremo tra pochissimo. Lula in Brasile, ex presidente che ieri è diventato ministro, il giudice sospende questa nomina. Brasile nel caos con tafferugli in piazza tra i manifestanti, la presidente Dilma dice che farà ricorso. E poi pensioni: ad aprile arrivano le buste arancioni per 7 milioni di italiani, di dipendenti privati, poi arriva in busta paga invece per i dipendenti pubblici, per capire qual è il proprio prospetto per la pensione. Allerta terrorismo in Turchia, chiusa l'ambasciata tedesca. E poi c'è il settimanale inglese Economist che mette Trump nella classifica dei maggiori rischi che corriamo nel mondo. Al primo posto c'è la possibile, il possibile indebolimento dell'economia cinese. Ma rischi li corriamo grossi, anche se come Europa non riusciamo davvero più a metterci d'accordo, ad avere una politica unitaria, a gestire i flussi migratori che si fanno sempre più forti e che anche creano grandi crisi umanitarie. È in corso a Bruxelles il vertice ordinario di marzo dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, quindi il Consiglio Europeo, che è dedicato anche questa volta alla crisi migratoria e a quella che dovrebbe essere un accordo, se si arriva a questa conclusione, con la Turchia. La conclusione è prevista per domani mattina, quindi andranno avanti anche questa notte, ma c'è per noi Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore, inviato proprio a Bruxelles. Buonasera Gerardo. Buonasera a voi. A che punto sono i lavori? Sentivo che la Merkel era cautamente ottimista, poi sentiremo magari anche un passaggio di Renzi, che era lì anche lui. Finora quali sono? Finora è il vertice di primavera tradizionalmente dedicato ai temi economici, dell'occupazione e della crescita, è per la terza volta in un mese dedicato alla crisi dei migranti, all'emergenza dei migranti, e quindi a un accordo che si è già ipotizzato, è già stato messo un poco nero su bianco in una bozza con la Turchia, un accordo tra Unione Europea e Turchia per dare altri fondi da quantificare perché la Turchia possa gestire la crisi dei migranti e dei richiedenti asilo che provengono dalla Siria per le note vicende e la guerra civile che è in corso in quel paese. Renzi, come ha già detto ieri in Parlamento, anche entrando al Consiglio e poi prima del Consiglio in un incontro che ha avuto sul servizio civile europeo in un albergo qui di Bruxelles, e insomma insiste nel dire che sui migranti e sulla crescita o l'Unione Europea dà delle risposte credibili e anche diciamo efficaci, oppure l'Unione Europea rischia di fallire. Infatti lo sentiamo giusto un passaggio, giusto 15 secondi, Gerardo, sentiamolo dalla viva voce. Bene fare un accordo con la Turchia, ma sia chiaro che l'accordo con la Turchia, se ci sarà, farà da precedente. Le regole che saranno valide per la Turchia dovranno essere valide anche per altri paesi che vengono dal Mediterraneo. Qui ha aggiunto anche altro, insomma, al di là del fallimento dell'Europa, però sì, si possono anche complicare, certo, un po' le cose poi, no? Il rischio precedente che quindi può valere per altri paesi non europei, come un domani appunto la Libia o altri paesi dal quale provengono dei flussi consistenti, ma non lo ha detto in maniera così esplicita, ma in maniera un po' sfumata, ma ieri in Parlamento italiano è stato molto chiaro. Beh, insomma, bisogna fare un accordo, ma non a qualunque costo, e per esempio chiedere nello stesso tempo alla Turchia che il governo di Erdogan rispetti i diritti umani, rispetti la libertà di stampa, dopo le note vicende sugli organi di informazione turchi che ci sono stati. Ecco, quindi questa è un po' la situazione, il consiglio andrà avanti, c'è adesso la scena di lavoro, il cauto ottimismo della Merkel e dello stesso Juncker direi che è quasi obbligatorio, ma già si prevede di fare notte fonda. Il prologo economico invece è tutto dedicato ai temi appunto della crescita, e anche diciamo il presidente della BCE Mario Draghi ha attirato l'attenzione dei capi di Stato e di Governo sul fatto che la politica monetaria non può affrontare le debolezze strutturali di base dell'economia dell'Eurozone senza le riforme strutturali, e da parte sua Renzi è ritornato alla carica su un vecchio progetto, cioè scorporare dal patto di stabilità la quota di finanziamento nazionale degli investimenti che si avvalgono dei fondi strutturali. Ma su cosa mettere, ecco, su quale e come definire meglio questo scorporo, credo che ci sia ancora molto da lavorare con la Commissione Europea. Grazie Gerardo Pelosi, infatti, e poi si continuerà anche a parte con la Commissione Europea, poi in queste ore, come ci dirà Gerardo, probabilmente andranno avanti fino a notte, si avranno delle conclusioni domani mattina. Adesso volevo ancora guardare proprio velocemente qualche messaggio. Dice per esempio questo SMS: destra e sinistra sono due visioni antitetiche che esisteranno finché esisteranno società con disuguaglianze, rapporti di produzione, classi, la trasversalità è sulle amministrazioni locali, forse, dice questo ascoltatore o ascoltatrice a proposito delle elezioni comunali, dove si dice da tempo si sceglie più la persona, il suo programma, che non il suo schieramento partitico. È un Brasile questo che sentite in grande agitazione, ci sono manifestazioni di piazza da ore, perché che cosa è successo? Ieri l'ex presidente brasiliano, che è anche una delle figure più carismatiche del Brasile contemporaneo, Lula, è stato nominato nuovo ministro nel governo della presidente Dilma Rousseff. In questo modo però ha praticamente in automatico ottenuto l'immunità rispetto a delle accuse per riciclaggio che lo vedono indagato. Oggi però la magistratura ha ordinato la sospensione di questa nomina, che dovrà essere poi confermata dalla Corte Suprema. Ma meglio di quello che sta succedendo ci dà ulteriori chiarimenti Roberto Darin del Sole 24 Ore. Roberto. Eccoci, buonasera a tutti. Sentivamo, le manifestazioni sono estese in buona parte del Brasile, quindi è qualcosa di grosso che sta accadendo. È una giornata campale quella in Brasile oggi sul fronte politico, perché l'ex presidente Lula, che è stato il presidente più carismatico, che ha ottenuto negli anni migliori l'85% di consenso personale e ha regalato al Brasile una gestione, una stagione molto lunga di crescita economica, di sviluppo e di diminuzione della povertà, ora sembra essere caduto in disgrazia proprio perché viene accusato di avere di complicità nel sistema di tangenti che ha scosso il Brasile negli ultimi mesi. E quindi siamo agli sgoccioli di una crisi che, oltre che economica e politica, è diventata anche costituzionale, perché la presidenta in carica, Dilma Rousseff, lo ha nominato oggi ministro, garantendogli sostanzialmente una sorta di immunità parlamentare. Una decisione ardita che ha spinto un giudice a dichiarare illegittima questa operazione. Illegittima in quanto palesemente mirata a proteggere un ex presidente. Da qui scontri di piazza e manifestazioni a favore o contro di Lula. Il sospetto che molti muovono è che ci sia in verità uno scontro politico molto forte di un'opposizione che dopo 16 anni consecutivi di governo del centro-sinistra cerca in ogni modo di scardinarne la credibilità istituzionale, visto che la crisi economica comunque non ha fino ad ora consentito un'alternanza di posizioni al governo. Ricordo che per il quarto mandato consecutivo è al governo il centro-sinistra. Roberto, questa è un po' la vicenda. Per chiudere, che esito potrebbe avere questa situazione? Ancora impossibile prevedere un esito. Di certo potrebbe esserci un processo per impeachment. Anche se la Rousseff può fare ricorso, forse l'ha pure annunciato, ricorso contro questa decisione. Sì, però la posizione naturalmente non sarà breve, perché naturalmente ora ci saranno tutti i tempi giuridici che uno Stato di diritto deve garantire a chiunque, quindi non sarà un processo né breve né risolutivo. Ciò che però il dato che resta è che comunque la sconfitta è politica prima ancora che giuridica, e questo vedremo nel tempo come si svilupperà, però effettivamente un presidente e un governo che avevano l'85% di consenso e ora sono scesi al 10%, è il consenso che ha Rousseff in questo momento, evidenziano comunque un calo palese di popolarità. La recessione economica dovuta al prezzo basso delle materie prime agricole di cui il Brasile è esportatore è la causa prima della crisi economica. In cui si innesta poi questa crisi politica, quelle politiche istituzionali. Grazie Roberto Darin. Ciao Roberto. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Intanto vedo continuamente, arrivano i vostri messaggi sulle categorie che secondo Salvini, centrodestra e centrosinistra, ma non secondo soltanto lui, ne abbiamo sentito parlare diverse volte, che sarebbero ormai superate in Europa e quindi anche in Italia. Matteo scrive: certo che sì, una delle rare volte che non dice una sciocchezza gliel'avrà suggerito qualcuno. Maurizia: infatti Renzi non mi sembra molto di sinistra, adesso Berlusconi vuole dare casa e lavoro ai Rom. Enzo, sì, questo messaggio che avevo già letto prima. E poi c'è Cristiano che dice: mentre il nuovo cos'è? L'odio verso il diverso, il migrante, il nero? Perché non si interroga sui milioni di astenuti dalle viscere colme di questo marciume? Dice Cristiano. Antonio: solitamente chi sostiene destra e sinistra non esistono, sono gli appartenenti alla destra becera. Invece Angelo al 349-238-6666: se non fosse per gli statali voterebbero solo chi crede ancora a Babbo Natale, secondo Angelo, quindi l'astensionismo. Andrea da Bologna: destra e sinistra in Italia superate dai tempi del cosiddetto compromesso storico, tanto caro ad Enrico Berlinguer. Continuate quindi con le vostre riflessioni, c'è la pagina Facebook di Effettonote, qualcuno ogni tanto gli chiede ma dov'è, basta andare su Google e mettere Effettonote trattino Roberta Giordano, lo trovate con molta semplicità, oppure scrivete intanto gli sms anche al 349-238-6666. Poi ritorniamo tra poco con altri temi, in particolare appunto la politica. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice, naturalmente Roberta Giordano con voi. Ci sono ancora sempre gli spazi per voi, come sempre qui Effetto Notte, per intervenire sia con gli sms al 349-238-6666, sia con la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Tra pochissimo cominceremo ad addentrarci ancora negli sviluppi della politica, vi ricordo anche a breve le notizie più importanti. Intanto i vostri messaggi anche su WhatsApp, dice questo ascoltatore o ascoltatrice: finché esisteranno le medaglie che inevitabilmente hanno due facce, ci sarà anche una politica e una opposta. Poi Marco da Ferrara: ha ragione Salvini quando dice che centrodestra e centrosinistra sono categorie superate. Questa è la sua dichiarazione, io vi sto chiedendo se effettivamente la pensate così. Dice Marco da Ferrara: ha ragione, ora esiste Matrix pro euro e Zion anti-euro. Vabbè. Poi Giovanni da Messina: Grillo lo diceva anni fa, Salvini arriva in ritardo come sempre. Dice poi un altro WhatsApp: non direi che non esiste più la destra o la sinistra, io direi che non esistono più i politici di destra o di sinistra. Evidentemente vogliono allargare il consenso, dice probabilmente l'ascoltatore. Allora, ritorniamo brevemente sui titoli principali e poi cominciamo un po' a dibattere ancora di politica. Il vertice sui migranti, in bilico l'accordo con la Turchia, resta il nodo Cipro, la riunione prosegue nella notte. Brasile, il giudice sospende la nomina di Lula a ministro, sconti in piazza tra i manifestanti. Verdini, condannato a 2 anni, polemiche nel PD e il Movimento 5 Stelle va all'attacco e dice Renzi governa con un pregiudicato. Stallo nel centrodestra, anche Fratelli d'Italia si smarca da Forza Italia a Torino. Allarme terrorismo ad Ankara, chiusa l'ambasciata tedesca per possibili attacchi. Quindi stiamo assistendo in queste settimane a delle specie, possiamo definirle, di telenovele che si arricchiscono di giorno in giorno di nuovi episodi, in particolare per quanto riguarda le elezioni comunali, quindi le candidature per le comunali che ci saranno il prossimo giugno. Il fulcro soprattutto di queste telenovele, possiamo dire, che è Roma, e la telenovela riguarda in gran parte il centrodestra, non è che il centrosinistra ne sia esente. Diciamo che in questo momento, quindi il caso Bassolino, però in questo momento il problema si sposta su un altro fronte, che è quello di Verdini, di cui parleremo per il centrosinistra. Quindi abbiamo visto in queste ultime settimane questo progressivo affollamento dei candidati nel centrodestra. Ieri vi ho raccontato della candidatura ufficiale di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dopo gli sconsigli non richiesti di Bertolaso e Berlusconi, e poi ieri avete sentito anche qui ospite a Effetto Notte il sindaco di Verona Flavio Tosi, che ha detto che sta pensando di candidarsi a sua volta. Allora sentiamo proprio un breve passaggio di questa chiacchierata di ieri. Stiamo pensando proprio per quello che è successo a Roma, perché adesso ormai l'impressione è che il tema non sia più il programma, non siano i problemi della città, non sia la buona amministrazione, cosa di cui i romani hanno un disperato bisogno e voglia, ma guerre fratricide, dispetti, ma dare la parola poi mancarla, giocare sulla testa di Roma, perché è quello che è successo tra Berlusconi, Salvini e la Meloni, è una questione che non è romana, è una guerra per la leadership del centrodestra, dove Salvini e la Meloni hanno deciso di cercare di far fuori Berlusconi in questo modo. Quindi Tosi, al di là dei motivi per cui si candida, del programma che ieri ha un po' esplicitato, diciamo, parla di questa guerra fratricida all'interno del centrodestra, di battaglia per la leadership del centrodestra. C'è da aggiungere poi che Lega e Fratelli d'Italia hanno rotto con Forza Italia non solo a Roma ma anche a Torino, e oggi Salvini, a margine di un convegno, ha dichiarato appunto che centrodestra e centrosinistra sono categorie superate. Sentiamo. Centrodestra e centrosinistra sono categorie vecchie. Tutta Europa, lo stesso Trump negli Stati Uniti ci dicono che si va verso nuove forme di partecipazione, quindi io guardo avanti. Sono un ragazzotto, come dice qualcuno, quindi guardo avanti. E c'è anche da aggiungere, fra l'altro, che Salvini oggi ha annunciato, in caso di ballottaggio a Roma, di voler appoggiare i pentastellati, quindi il Movimento 5 Stelle. Che ne è allora del centrodestra? Lo chiedo a Alessandro De Angelis, commentatore politico dell'Huffington Post. Alessandro, buonasera. Ciao, buonasera. È in crisi centrodestra, sta mutando, sta cambiando, sta diventando qualcos'altro? Direi che c'è una crisi profonda del centrodestra. Quello che raccontavi tu e che in parte diceva anche Tosi, cioè che il dato evidente, non c'entra niente Roma, non si sta litigando su come governare Roma, è iniziata una sfida per la leadership nazionale, no? E Salvini e la Meloni, sfidando il candidato di Berlusconi, vogliono dimostrare dal giorno dopo che il boccino del centrodestra non è più nelle mani di Silvio Berlusconi. Si spiega così quello che accade a Roma, si spiega la rottura che c'è stata a Torino, dove Salvini andrà da solo, si spiega quello che accadrà a Napoli e a Bologna, un po' in tutta Italia, no? E il minuto dopo le elezioni Berlusconi non potrà dire in vista del 2018 il candidato sono io, al di là dei suoi guai giudiziari che lo rendono incandidabile, oppure il candidato lo decido io, no? A quel punto Salvini dirà sono più forte io, quindi o facciamo le primarie o oppure no. Quindi è, diciamo, è finito il centrodestra per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi vent'anni, segnato dalla leadership incondizionata di Berlusconi, con grande consenso popolare, e dall'egemonia di Forza Italia sulla coalizione. Quindi Casa della Libertà non c'è più, insomma, questo... Esatto. A Roma tutto iniziò, quello schema con Fini nel 93, quando Berlusconi, ti ricordi, disse io voterei Fini, nacque quel tipo di centrodestra, tante vicende, adesso non c'è più perché Berlusconi non è più leader riconosciuto e Forza Italia rischia di prendere meno della Lega. E su questo anche dentro Forza Italia ci sono dei sommovimenti, diciamo, si sente un'area un po' da 25 luglio, no? Tipo quando il Gran Consiglio del Fascismo e Archivio Mussolini, domani Toti, l'ex consigliere politico di Berlusconi e governatore della Liguria, lancerà una sua fondazione e già parla di primarie per scegliere la leadership del centrodestra che verrà, no? Perché lo fa? Perché lui, tutti i parlamentari del nord, i governatori, anche Maroni, sono preoccupati del fatto che con la rottura della Lega non saranno rieletti. Molto semplice, no? Alessandro, visto che al centro negli ultimi giorni è stata di queste battaglie a Roma Giorgia Meloni, sentiamo un'intervista della nostra collega Betta Fiorito. Onorevole Meloni, il centrodestra è morto, è vivo, è vegeto e lotta insieme a noi, il centrodestra che io immagino, che difendo, che voglio costruire difendendo i diritti delle persone contro gli interessi dei pochi che fa il governo Renzi e che fanno i suoi rappresentanti, è anche il motivo per il quale abbiamo scelto di spenderci in tutti i modi possibili e immaginabili in queste elezioni amministrative, perché a questo governo di burattini dei poteri forti non vogliamo regalare niente, vogliamo schierarci con le famiglie, con le imprese, contro il degrado, per la sicurezza dei cittadini, ed è quello che stiamo facendo. Poi le beghe di partito non interessano a nessuno. Sì, ma non è ora di un cambio generazionale? Insomma, Berlusconi ha 80 anni, lei è una giovane, Salvini è uno giovane, non, gli elettori del centrodestra non chiedono un cambio generazionale, secondo lei? Ma se lo chiedono potranno votare un sindaco di 39 anni che si chiama Giorgia Meloni a Roma, per esempio. Quindi noi facciamo la nostra parte, però questi temi sono buoni per i dibattiti tra giornalisti o tra politici e giornalisti, poi bisogna parlare dei problemi della gente, e le posizioni chiare sono le posizioni che vincono, quelle di chi si schiera con loro. Ha più paura di Raggi o di Giachetti? Non ho paura di nessuno, rispetto tutti ma non temo nessuno. Tra nessuno, insomma, audace Giorgia Meloni, Alessandro De Angelis. Senti, non so se vuoi commentare queste dichiarazioni della Meloni o passiamo alla vicenda Verdini? Ma te le commento rapidissimamente. È chiaro che lei non può dire Berlusconi è finito e vado contro Berlusconi per ragioni tattiche. Lei sta sperando che a un certo punto Bertolaso possa fare un passo indietro e quindi prendere anche quell'altro pezzo della coalizione. Punto primo. Punto secondo, dice parliamo dei problemi della gente, ma magari è da dire. Insomma, noi a Roma, dove c'è stato quello che c'è stato, Mattia Capitale, l'altro giorno l'hai visto il rapporto ANAC di Cantone, dice che è una città fuori legge. Stiamo parlando soffocata dalla corruzione, sì. Esatto, soffocata dalla corruzione. Stiamo parlando da tre settimane prima delle schede bianche del PD, dopodiché di tutte le gazzebarie e delle vicende, eccetera. Io ancora non sento che cosa farebbe un aspirante sindaco al Campidoglio per dire sulla legalità, per esempio, no? Che magari mi sembra tanto un dettaglio. Senti, invece, per quanto riguarda, a proposito di legalità, la vicenda Verdini, no? Parlamentare di leader di ALA, Alleanza Liberale Popolare Autonomie, Denis Verdini è stato condannato a 2 anni di reclusione, la pena è stata sospesa perché sono state riconosciute delle attenuanti, accusato di corruzione per la ristrutturazione della scuola dei Marescialli a Firenze. È una costola del processo sul G8 dell'Aquila, no? Con una catena di appalti, eccetera, eccetera. Insomma, una sentenza che però sul versante politico subito rilancia la polemica dell'appoggio di Verdini al governo Renzi, quindi di nuovo questo scontro all'interno del PD della minoranza che dice ve l'avevamo detto, insomma, che farsi sostenere da Verdini non era cosa buona e giusta e opportuna, e poi dall'altra il Movimento 5 Stelle che dice da oggi Renzi governa col sostegno di un condannato per corruzione. Sì, esatto. È imbarazzante, diciamo, adesso la situazione per sì, perché oggi si è materializzato il fantasma, no? Renzi aveva detto a tutti qua vivete col fantasma di Verdini, e oggi è arrivato il fantasma con i guai giudiziari, no? E quindi quando uno vede un fantasma un po' si spaventa. E, anche perché Verdini, poi questo è una parte, poi Verdini c'ha anche altri processi, uno molto che lui teme molto, quello sulla bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, poi c'ha processo sulla P3 con Cosentino, e poi c'è anche un altro, insomma, su finanziamento illecito dei partiti legato a una plusvalenza, insomma, È chiaro che il dato oggi Grillo è insosto, pure Salvini, l'imbarazzo della minoranza del PD, l'imbarazzo dei renziani, che insomma hanno detto assai poco, no? Oggi. Perché Verdini vota la fiducia ormai, Verdini fa parte della maggioranza. Che cosa ci dice la cosa di oggi? E insomma, poi ci conferma i sospetti che si è avvicinato al governo perché spera di risolvere un po' i suoi guai giudiziari, no? Verdini sulle sentenze definitive rischia l'arresto. Questo è il punto. Se poi lo metti insieme a un altro dato di giornata, che secondo me è molto significativo, che è l'appello su Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, no? Che nel processo Mediatrade hanno ribaltato il primo grado e sono stati condannati per frode fiscale, tu capisci che attorno a questo Nazareno c'è un'ombra, insomma, non molto limpida, no? Cioè è chiaro che Mediaset, che in questo momento ha un atteggiamento molto benevolo dal governo, no? Non ci risulta che la legge Gasparri sia stata toccata, insomma Mediaset con il governo Renzi vive una seconda giovinezza, e Verdini che ha un'ira di Dio di guai giudiziari, ecco, tu c'hai i protagonisti del mondo berlusconiano che si mettono all'ombra del governo per magari salvarsi dal loro guai giudiziari. Questo mi pare il dato di fondo, no? Bisogna vedere adesso. Renzi non mi sembra che sia, a parte che era a Bruxelles per il Consiglio europeo, insomma, vediamo le reazioni nei prossimi giorni. No, ma Renzi la tiene bassa. Renzi secondo me la terrà molto bassa, basso, perché altrimenti questa è la classica benzina sul fuoco della direzione del PD della prossima settimana. Farebbe notizia, quindi, no? Certo, anche se qualcuno gli chiederà appunto proprio nella direzione del PD, insomma. Va bene, Alessandro De Angelis della Huffington Post, ti ringrazio e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao Alessandro. Prima della viabilità, ancora messaggi. Franco scrive al 349-238-6666: il centrodestra è in crisi perché le loro politiche di destra le fa il PD di Renzi. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci qui, Roberto Giordano con voi, ancora i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, intanto ve li ripeto perché varie magari accendono in momenti diversi. Stefano Bruno Galli dice: Salvini ha ragione sul fatto che sono ormai vecchie le categorie centrodestra e centrosinistra, da anni destra e sinistra è stato superato dalla dicotomia tecnocratismo-populismo ed è nato un processo di risemantizzazione del populismo, quindi ridare un nuovo significato al populismo come capacità di intercettare e interpretare il risentimento, il disagio, il malessere, il rancore e la rabbia sociale del ceto medio impoverito. Vi ricordo, dopo queste evoluzioni prosaiche del nostro ascoltatore, quali sono le notizie principali velocemente. Sono appunto con Verdini, abbiamo appena parlato, che è stato condannato a 2 anni per corruzione, pena sospesa, scontro nel PD, riaccende lo scontro nel PD, la sinistra Dem, e anche il Movimento 5 Stelle attacca, dice Renzi, governa con un pregiudicato. Il vertice dell'Unione Europea sui migranti, che è ancora in corso, e sempre un po' in salita l'accordo con la Turchia, mentre Draghi sferza i leader sul piano economico, dice la ripresa perde slancio, fate le riforme. In Brasile manifestazioni di piazza perché Lula, ex presidente Lula, personaggio più carismatico del Brasile, è stato nominato ieri ministro nel governo di Dilma Rousseff, però essendo indagato in un'inchiesta questo lo porta ad avere l'immunità e allora un giudice ha sospeso questa nomina. Ci sono manifestanti pro e contro Lula un po' in tutto il paese. Pensioni: ad aprile arriveranno le buste arancioni per 7 milioni di italiani per informarli su quello che è il loro prospetto pensionistico. Ora c'è l'appuntamento con la rubrica YouZone, che propone, lo sapete, un dialogo tra le elettori e rappresentanti europei sul sito di Radio 24. Poi, se siete interessati a contattarli, ci sono i loro indirizzi elettronici. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Nicola Danti. Età: 50 anni quest'anno. Nato a Pelago, Firenze. Eletto in Italia centrale. Con quanti voti? 80.100, compreso voto all'estero. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: SND, Socialisti e Democratici. Segni particolari: diciamo che adoro il formaggio e si vede. Quante lingue parla? Ma parlo francese e un po' di inglese, ma sto cercando di migliorare l'inglese. Competenze europee in 10 parole. Made in, indicazioni geografiche, commercio internazionale, mercato interno, TTIP, digitale, sharing economy. Benvenuto nella Youth Zone di Radio 24. Dieselgate, si è da poco insediata la commissione di inchiesta sulle emissioni nel settore automobilistico. Lei ne fa parte. Cosa si aspetta? Mi aspetto che venga fino in fondo la verità e le responsabilità di chi ha truffato cittadini e consumatori e anche stati. Mi aspetto che sia un'occasione per far venire fuori in Europa una nuova normativa che in qualche maniera dia sviluppo a un'industria più ambientalmente compatibile. 6 mesi fa lo scandalo della Volkswagen. In fumo la fiducia dei consumatori europei? Sì, diciamo che questo scandalo è stato una botta incredibile per le aziende e per l'intero mercato europeo, non solo dell'auto, ma un po' di tutto, perché quando un mito come quello di Volkswagen emerge quello che è emerso, è chiaro che nella garanzia per i consumatori sono sentiti traditi. Credo che serva una nuova legislazione chiara che possa garantire maggiormente i consumatori da eventuali truffe in futuro. DOP e IGP, i marchi di qualità per i prodotti agroalimentari italiani. Tutele e rischi. Tanto noi dobbiamo dire che l'Europa tutela le denominazioni d'origine e l'Italia è tra i paesi europei che hanno più denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Questo è particolarmente importante anche per la nostra economia. Abbiamo verificato in Europa ancora casi di truffe ai danni di denominazione d'origine italiana, penso a quello che è stato sul Prosecco in Inghilterra o altri marchi in varie altre parti d'Europa. Noi dobbiamo garantire che l'Europa sia ancora più ferma nel controllare. Europa e Turchia, in sintesi la sua visione. Io penso che abbiamo sbagliato molte cose negli ultimi giorni, credo che essersi consegnati mani e piedi alla Turchia non sia stato molto saggio. 3 aggettivi che la caratterizzano. Appassionato, responsabile, vero. Un sogno nel cassetto. Il sogno nel cassetto sarebbe riuscire a far fare l'Erasmus a tutti gli studenti universitari di tutta Europa. Se avesse la bacchetta magica? Mi piacerebbe una sera mettere a cena sotto un bel tendone di una festa italiana, delle tante feste che vengono fatte nel nostro paese, gli europei, e levarli invece da quelle paludate cene di lavoro che fanno nei palazzi di Bruxelles. Youth Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Sono ancora tanti i vostri messaggi, Angie, Edoardo e poi Giorgio da Zurigo, però adesso ci dobbiamo lasciare, vi aggiorno giusto alle 22.